le 22:52. Questo è 25 o'clock. Radio Onda Rossa 87.9 MHz di frequenza. Della banda romana e laziale. E ci siamo questo mercoledì 13. Puntata anomala senza il prof. Che se ne va saltellando tra i monti. Non che ci lasciamo trovare impreparati. Perché questo mercoledì ci è venuto a trovare il Magnetizers. Manifestati Magnetizers. Esci dalle nebbie oscure. Io ti evoco, Magnetizers. Andetrua. Buonasera, Magnetizers. Ci sono. Buonasera, carissimi. Ovunque voi siate, carissimi e carissimi, all'ascolto di Radio Onda Rossa, il Magnetizer è qui con voi. E con il suo spirito. Oggi in giornata così topica per le nostre anime dannate. Oh sì. La redenzione è vicina. Come i funghi. E vi andiamo a ricordare i contatti della radio. Il sito della radio è raggiungibile al www.ondarossa.info. L'email della redazione ondarossa@ondarossa.info. Già avete cominciato con i trilletti, quindi qualcuno si ricorda lo storico numero, ve lo ricordiamo comunque. 06491750. Radio Onda Rossa, una radio che non campa d'aria. Che non campa di solo metallo. Ma una radio che c'ha bisogno del metallo suonante. Quindi potete contribuire alla vita della radio. E il conto corrente è lo storico 61 80 40 01. Intestato a Cooperativa Culturale e Laboratorio 2001. Via dei Volsci 56 00 185, San Lollo. O più comodamente potete cliccare su Sostieni, sempre dal sito della radio. Se volete contattare invece la trasmissione, l'indirizzo email è 25 al numero, 25 o'clock, @ondarossa.info, dove potete vomitare le vostre preferenze musicali. Se volete farci riconoscere il vostro gruppo, le vostre scoperte, e visto che siamo in tema, andiamo ad aprire la puntata di questa sera con un pezzo. Che è dei Coven, Dignitaries of Hell. Happy birthday to you. We'll be right back. E quindi non potevamo che non iniziare con i satanici Jefferson Airplane, la versione satanica dei Jefferson Airplane. Loro sono i Coven. Quindi dall'inferno dei Coven. Andiamo alla città delle fiamme. Loro sono Blue Oyster Cult. Cities on Flame with Rock and Roll. Ci andava a raccontare il nostro Magnetizers, quindi mentre ascoltavamo i Blue Oyster Cult. Beh, che abbiamo avuto il piacere di vederli all'Hellfest l'anno scorso con anche altri amici di Roma. È stato un concerto da paura, perché loro sono un po' alla Creedence dal vivo, ti fanno un classico dopo l'altro e sono tutte canzoni che quelli più o meno della nostra età hanno sentito, volenti o nolenti, e sono tutti pezzi della Madonna. E per cui è stata una bella esperienza collettiva, diciamo, di magnetume generale. Ma suonano in piedi o seduti? No, ancora riescono a stare in piedi, poi magari fanno il bastone dietro all'amplificatore, probabilmente. Ma vedere un gruppo così a un festivalone tipo l'Hellfest ti dà speranza per il futuro. Ah, dal dici, passato. Se ce l'hanno fatta loro, forse arriva, ce la faremo pure noi, arriva a quell'età. Magari se pippiamo più veleni noi, eh. Beh, dipende, sull'inalare forse loro c'hanno molto da insegnarci, diciamo. E invece dai dinosauri ci spostiamo da un gruppetto dei Pischelli, ma insomma, più o meno. Loro sono i tedeschi Color Haze, ce li siamo ascoltati nelle scorse trasmissioni. E ci andiamo ad ascoltare dal loro ultimo disco She Said del 2012. Un doppio disco, un doppio album, come si diceva qualche tempo fa, quando ancora c'erano gli album. Un disco tutto imperniato sull'improvvisazione, sulla naturalezza, sull'acidume più spontaneo. Grandi vegetariani Color Haze. Ce li andiamo ad ascoltare con il loro pezzo Right. Thank you. arrivata la notizia che il Papa sarebbe morto. La notizia, la fonte è? Tre Stelle Ansa. Tre Stelle Ansa. Il Papa è morto. Io vi prego di alzarvi, per favore, per un momento di raccoglimento e, per chi crede, un momento di preghiera. Vitio vobis gaudium magnum. Ma voi, puta caso, non sareste il cardinale Annibaliano? E da Vigi? Sto qua. E da Vigi? Ma come, c'è il cardinale decano e non mi dite niente? Tiriamo fuori due ciambellette all'anice. Non ce l'avemo. Un rosolio. Non ce l'avemo. Due pastarelli. Non ce l'avemo. Non ce l'avemo un cazzo. Ma chi è tutta sta gente? Nunzio vobis gaudium magnum, abemus pontificem. Ah, bravi, vi siete messi d'accordo. E chi è? Eminentissimum ac reverendissimum. Reverendissimum. Sante Romane Ecclesiae. Ecclesiae. Cardinalem. Cardinalem. Provate a dire. Non mi fate far sforzi. Cardinalem deli caprettari. Deli caprettari. Ovvero sia voi. Io? Sì, signora Eminenza. Siete voi? So papa io? So Cristo intera? We'll be right back. questo era dal disco Static Tensions dei Kailisa. Disco uscito nel 2009 per la 20 Bucks Spin. Il pezzo era Perception. E ci abbiamo un disco che freme, selezionato per Magnataio. Scalpita. Frigge. Sfriccica tutto. Un disco che fa le fumate, quelle vere. Fuoco e fiamme e grandi fumate. E invece loro sono solo fumate. Fumate bianche, nere. Noi se lo respiriamo tutti i giorni, il fumo grigio. E a proposito delle fiamme, che ci abbiamo sul lettore di destra? Abbiamo i Mercyful Fate. Solo di posizione, Solo di posizione posizionato geografica. Sul lato destro della console. Abbiamo i Mercyful Fate. Però dato che non ci va sempre di andare sui vecchi classici, ci piacciono anche tanto i dischi che hanno fatto negli anni 90, abbiamo portato Into the Unknown. E ci andiamo ad ascoltare il pezzo 15 Men and a Bottle of Rum. Eccolo. Giusto per continuare un po' sul satanico in questi giorni di Magno Gaudio. Magno Gaudio? Il suono mi ricordava Magna Tizer. Poi ci perdiamo in chiacchiere e non mandiamo più i pezzi. Era per annunciare la matrice satanica del pezzo e per per convogliare tutte le energie notturne degli ascoltatori e ascoltatrici. Malignità dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Assolutamente. Sure. e dopo i Merciful Fate. Il prossimo pezzo lo dedichiamo alla donna spettro. Che infesta maligna la redazione della radio. Loro sono i Monster Magnet con Dopes to Infinity, che dovrebbe suonare più o meno come fumate per verso l'infinito. Verso l'infinito. C'erano arrivati prima i Monster Magnet del papato. Sì, sì, sì, grandi fumate bianche e multicolore. We'll be right back. E già sentiamo sotto i Godvad Redemption. È un gruppo di Frosinone. Esattamente. I nostri amici ciociari dal Frosinate. Grande saluto a Andrea, il batterista. Bella. Che è anche il batterista di Misanthropus. Che abbiamo avuto qua a 25 o'clock. Ci corregge la donna spettro che in realtà Andrea non c'era il giorno dei Misanthropus. Ma ci sarà. C'era con lo spirito, ma ci sarà. Se ci sta ascoltando, sappia che questo è praticamente un mandato di cattura esplicito. Quindi dal loro The Rough Sessions del 2011. Rimettiamo da capo Psicotria AI. We'll be right back. E questi erano i Godbat Redemption, che ci andiamo ad ascoltare adesso. Rimaniamo in zona? In zona, sì, sempre nel Lazio, nella capitale. Tiresia Raptus, progetto parallelo nato da varie menti di varie band capitoline già ben note. Menti disturbate. Menti, sì, disturbatissimissime. Ci ascoltiamo dal Limbo. Vi ricordiamo che poi loro saranno anche in concerto con i Quarta Luna. Quando? Questo non lo ricordiamo esattamente perché non ho internet sott'occhio. Ma ce l'hai sott'occhi. Sott'occhi. Per cui andate a cercare, vi ho dato l'input, andate a cercare esattamente quando, come e perché. Tiresia Raptus. Allora, e loro erano... abbiamo scoperto dove suonano i Tyrannosaurus Quarta Luna e quando, soprattutto, che è il 12 aprile al Closer. Procediamo ora nell'ascolto di Hammer, altra band capitolina. Questo è l'album del 2011 che si chiama Strike, sciopero. Riporta in copertina infatti un bellissimo collage di varie manifestazioni, tra cui anche l'Acropoli di Atene con mille striscioni appesi. Questo è il loro intro, Boa, I don't know why. E poi ci andiamo a sentire Let the Fire Burn. I don't know. We'll be right back. Thank you. E non provate a sforzarvi cercando di comprendere le parole dei testi di Paul Chain. Tempo sprecato. Paul Chain non canta in nessuna lingua, è una lingua puramente fonetica, come specifica sugli album. Però un modo anche saggio per risparmiare sul libretto del CD. Non è neanche l'unico, peraltro. I testi non ce l'ho. No, ma non dico... cioè, sono, però non dico niente. Puoi mettere che livelli di marketing, però. Quindi sotto ancora Paul Chain con Voyage to Hell, Viaggio all'inferno. Il titolo non è puramente fonetico. E qui la redazione oscura di 25 O'Clock infestata dagli spettri e dalle spettre, fantasmi e magnati. Professori con le barbe lunghe. Insomma, hai scovato questa notizia sulla fisica dei balli rock. Prego, prego, ci dica. Succede? Succede praticamente che gli studiosi Silverberg e Birbaum hanno studiato le dinamiche fisiche e comportamentali che si creano durante i vari mosh pit, circle pit, balli rock. Ma di dove sono loro? Tipo norvegesi? Sì. C'è chi è che finanzia uno studio del genere? Cornell University. Sicuramente chi lo finanzia è un magnato allucinante, però ha dei soldi per finanziare questi studi. E quindi che cosa ne è uscito fuori? Praticamente andando a studiare, cioè hanno studiato vari videoclip di vari festival, cose varie, e hanno visto che il modo in cui le persone tendono a muoversi è molto simile a quello degli stormi o dei grandi branchi di animali. Io non avevo dubbi, eh. E infatti nessuno di noi aveva dubbi a riguardo, chiaramente. Ma hanno anche trovato somiglianze con movimenti del movimenti fisici dei gas. Dei gas. Gas. Per cui, vedi, come movimenti gassosi della gente. Bene, uno studio. Praticamente sono riusciti a trovare una formula matematica che descrive il movimento, i moti che vengono fatti appunto dalle persone durante concerti. E l'equazione del pogo. Esatto. Esattamente. Per esatto. Cui, per quanto vuoi essere comunque sia alternativo, stai sempre all'interno di una matrice matematica. Ma pure noi? È certo. Può essere. È capace. Praticamente, in fondo a tutto questo, loro hanno fatto anche tutta una ricostruzione computerizzata, e per cui hanno fatto tutte delle ricostruzioni, e chiaramente alla somma di tutto questo è che era, appunto, chi ha finanziato tutto ciò era veramente un grosso magnato, un grande magnato, chiaramente, perché ci avranno perso pure del tempo, e, insomma, programmatori e quant'altro. E finanziamenti. niente d'altro. Il signor oscuro dei magnati. C'è solo una frase finale su cui potremmo non essere d'accordo. In particolare dove dice i killswitch engage sono quelli che più di tutti fanno andare la folla fuori di testa. E qui dipende anche un po' dai gusti personali. E dal background sì, di questi studiosi, cioè, della Cornell University. Può essere. Può essere. Può essere, può essere. Quindi andiamo a continuare quello che si sta delineando come l'angolo italiano di 25 O'Clock. E questo è un trio napoletano. Che saranno sicuramente onorati di essere trasmessi dopo Paul Chain. Loro sono i Naga. Questa è The Path. We'll be right back. cosa ci andiamo ad ascoltare adesso? Ritorniamo a Roma? Sì, sì, sì, torniamo nella capitale. Loro sono i Fingernails. L'album è Destroy Western World. E vogliamo, vabbè, a parte salutarli perché sono tutti simpaticissimi, vogliamo anche ricordare che con molto piacere ho aperto l'ultimo numero, non, niente di meno che del Rolling Stone, e c'è proprio un articolo che riguarda il loro cantante Anthony. E un ragazzo, Francesco Di Giorgio, romano, anche lui, sta preparando un documentario sulla vita di Anthony. Si chiamerà Anthony a Heavy Metal Life. È in cerca di produttore. Noi speriamo che magari che con questa buona pubblicazione la notizia arrivi magari anche a un mercato più ampio. Intanto ci sentiamo la title track del loro album Destroy Western World. Quindi da capo. Erano i Fingernails, gruppo storico di Roma. Mezzanotte 28, Radio Onda Rossa. Killer, 0649 1750. e dopo i Fingernails continuiamo a rimanere in Italia. Questa volta da Roma ci spostiamo in Sicilia. Loro sono i Bunker 66. Peraltro anche molto molto apprezzati all'estero, cioè in Norvegia il vecchio All in the Sky Festival adesso si chiama Bunker Festival. Sono stati invitati Bunker 66, l'organizzatore è andato talmente a rota che adesso si chiama Bunker Festival. E quindi ce li andiamo ad ascoltare con la sesta traccia da Out of the Bunker. Il pezzo è Larkin Demons. Invece è un'uscita per la Black Widow, l'impero delle ombre. La traccia è Condanna. Dimmi perché devo soffrire. c'è musica. Sono l'Impero delle Ombre, l'unico gruppo che non suona reggae del Salento. Pensi cantano di templari, strazi, invece di musica solare allegra, loro se la sono fatta pia a malissimo. Impero delle Ombre, vedo nero. Anche i taralli neri c'hanno. Infatti noi ci teniamo a fare un appello affinché condividano con tutti noi e tutte noi il favoloso olio salentino. Quindi invitiamo i componenti del gruppo e non solo insomma a farci... A spedire taralli. Taralli, ma anche le ricette delle nonne vanno benissimo eventualmente. I segreti culinari delle nonne salentine. Quindi dalla Sicilia, passando per il Salento. Volo totale, cambiamo latitudine. Quindi andiamo nella zona di Varese, loro sono dei Captain Trips. We'll be right back. Andiamo a ricordare che questo sabato 16 marzo c'è il corteo nazionale antifascista e anticapitalista nel decennale dell'assassino di Dax. E sono rimasti ancora dei posti per i pullman. Potete contattare l'infoline al 333 366 713. Mezzanotte e 48, questa è Radio Onda Rossa, 87.9 MHz di frequenza. 0649 1750 per i trillini. Se non state già dormendo. E noi proseguiamo questo viaggio immaginario nell'Italia magnata. A riscendiamo. Quindi andiamo a Pescara. Chieti, provincia di Chieti, vedo qui da internet. Loro sono The Tripping Flowers. Esattamente. Hanno anche prodotto una birra con il loro stesso nome, peraltro, una bella buona, fruttata, chiaramente. Gradevole, ho piacere. E questa è la terza traccia dal loro Down the Road. Il pezzo è Mr. Be Quick. Questa è Radio Onda Rossa, 25 o'clock. E dalle limini a code qui appeso davanti a noi. È luna, siccome domani mattina ci dobbiamo andare a guadagnare la stozza di pane, vi andiamo a salutare, bella. Buonanotte, magnati. Era doveroso, peraltro, mettere Hang the Pop dei Nuclear Assault, assolutamente, per dare il doveroso benvenuto al nostro nuovo nemico. Ciao Francesco, sappiamo chi sei. Bella. Sappiamo dove abiti. Buonanotte a tutte e tutti. Il nostro saluto più caro va a tutte e tutti coloro che si trovano in condizioni di limitata libertà personale in tutte le sue infami forme. E un saluto speciale a Marina Alberto. Noi vi andiamo a salutare sotto la luna comunista. Bella Fefo. Still for free, no more dead time. I'll share our dreams, I'll share our